Non ci fu possibile informare Charlieu, giacché ignoravamo l'attuale indirizzo di Bloch. Ma sapevo che gli uffici di suo padre erano in Rue de Blancs-Manteaux. Quale abisso di perversità! Esclamò Charlieu, che parve trovare in questo grido di ironica indignazione una soddisfazione profonda. Rue de Blancs-Manteaux, ripeté, calcando su ogni sillaba e ridendo. Che sacrilegio! Pensate che questi bianchi mantelli profanati dal signor Bloch erano quelli dei frati mendicanti, detti servi della Beata Vergine cui San Luigi assegnò quella sede. Ed è sempre stata una via di ordini religiosi. La profanazione è tanto più diabolica in quanto a due passi da Rue de Blancs-Manteaux c'è una via, di cui mi sfugge il nome, interamente concessa agli ebrei. Ci sono scritte in ebraico sui negozi, fabbriche di pane azzimo, macellerie ebree. È in tutto e per tutto la Judengasse di Parigi. È là che avrebbe dovuto sistemarsi il signor Bloch, naturalmente. Riprese in tono alquanto enfatico e fiero, e, per esprimersi in termini estetici, conferendo, con una risposta suggeritagli suo malgrado dalla sua eredità, un piglio da antico moschettiere di Luigi XIII al suo viso gettato all'indietro, non mi occupo di tutto questo che dal punto di vista dell'arte. La politica non è affar mio e non posso condannare in blocco, visto che di Bloch si parla, una nazione che fra i suoi figli illustri annovera uno Spinoza. E ammiro troppo Rembrandt per non sapere quanta bellezza si può ricavare dalla frequentazione della sinagoga. Ma, insomma, un ghetto è tanto più bello quanto più è omogeneo e completo. Tenete per certo, d'altronde, a tal punto in quel popolo l'istinto pratico e la cupidigia si mischiano al sadismo, che la vicinanza della via ebrea di cui vi parlavo, la comodità ad avere a portata di mano le macellerie israelitiche, hanno spinto il vostro amico a scegliere Rue de Blancs-Manteaux. Che cosa curiosa! E là, del resto, che abitava uno strano ebreo, il quale aveva fatto bollire delle ostie, dopodiché credo che abbiano fatto bollire anche lui. Cosa ancora più strana, perché sembra significare che il corpo di un ebreo può valere quanto il corpo del buon Dio. Forse si potrebbe combinare col vostro amico che ci porti a visitare la chiesa dei Blancs-Manteaux. Pensate, è lì che hanno deposto il corpo di Luigi d'Orléans dopo il suo assassinio ad opera di Giovanni Senza Paura, il quale, disgraziatamente, non ci ha liberati degli Orléans. Sono, peraltro, in ottimi rapporti personali con il mio cugino, il duca di Chartres, ma è comunque una razza d'usurpatori che ha fatto assassinare Luigi XVI e spogliare Carlo X e Enrico V. Del resto si capisce anche troppo bene da chi hanno preso, avendo per antenati Monsieur, che senza dubbio chiamavano così perché era la più stupefacente delle vecchie signore, e il reggente e tutti gli altri. Che famiglia! Questo discorso anti o filo semita, a seconda che si badasse alla superficie delle frasi o alle intenzioni che esse celavano, era stato comicamente interrotto per me da una frase sussurratami da Morel e che aveva gettato Charlieu nella disperazione. Il violinista, a cui non era sfuggita l'impressione prodotta da Bloch, mi ringraziava all'orecchio d'averlo spedito, aggiungendo cinicamente: avrebbe voluto rimanere, è tutta gelosia, vorrebbe prendere il mio posto, tipico d'un giudeo. Si sarebbe potuto approfittare del protrarsi della sosta per chiedere al vostro amico qualche spiegazione rituale. Non potreste riacchiapparlo? Mi chiese Charlieu, con ansiosa incertezza. No, è impossibile, è andato via in carrozza e per di più offeso con me. Grazie, grazie, mi bisbigliò Morel. Una ragione assurda, si può sempre raggiungere una carrozza, niente vi impedirebbe di prendere un'auto, replicò Charlieu, da uomo abituato a veder soddisfatto ogni suo capriccio. Ma notando il mio silenzio, cosa sarebbe poi questa carrozza più o meno immaginaria? Mi chiese con insolenza e un'ultima speranza. È una diligenza scoperta che a quest'ora sarà già arrivata alla comanderie. Di fronte all'impossibile, Charlus dovette rassegnarsi e affettò buon umore. Capisco che abbiano evitato un nuovo superfluo coupé. Sarebbe stato un recoupé. Finalmente ci avvisarono che il treno ripartiva e Saint-Loup ci lasciò. Ma fu quello l'unico giorno in cui Robert, salendo nel nostro scompartimento, a sua insaputa mi fece soffrire, a causa dell'idea che mi venne per un istante di lasciarlo con Albertine per accompagnare Bloch. Le altre volte la sua presenza non mi torturò. Albertine, infatti, per evitarmi qualsiasi inquietudine, si collocava di sua iniziativa, con questo o quel pretesto, in una posizione tale che non avrebbe potuto nemmeno involontariamente sfiorare Robert, e quasi troppo lontana persino per dovergli tendere la mano. Non appena lui arrivava, lei si metteva, volgendo altrove lo sguardo, a conversare in maniera vistosa e quasi ostentata con uno qualunque degli altri viaggiatori, e continuava questa recita finché Saint-Loup non se ne andava. Così le visite che egli ci faceva ad Doncières, non causandomi nessuna sofferenza, nessun imbarazzo, non facevano eccezione rispetto alle altre, che mi erano tutte gradite perché mi portavano in qualche modo l'omaggio e l'invito di quella terra. Già quando, col finire dell'estate, nel tratto fra Balbec e Deauville, scorgevo da lontano quella stazione di Saint-Pierre-des-Ifs, dove ogni sera per un istante la cresta delle scogliere scintillava tutta rosa, come la neve d'una montagna al tramonto, essa non mi faceva più pensare, non parlo nemmeno della tristezza che la vista del suo strano, brusco impennarsi m'aveva provocata la prima sera, infondendomi un così acuto desiderio di riprendere il treno per Parigi invece di proseguire sino a Balbec, allo spettacolo che da laggiù, m'aveva detto Elstir, si poteva godere al mattino, nell'ora che precede il sorgere del sole, quando tutti i colori dell'arcobaleno si riflettono sulle rocce, e lui aveva svegliato tante volte il ragazzino che un anno gli era servito da modello per dipingerlo nudo sulla sabbia. Il nome di Saint-Pierre-des-Ifs m'annunciava soltanto l'imminente comparsa d'un cinquantenne strano, spiritoso e imbellettato, con il quale avrei potuto parlare di Chateaubriand e di Balzac. E adesso, fra le brume della sera, dietro quella scogliera di Ancarville che tante volte un tempo m'aveva fatto sognare, ciò che vedevo, come se la sua antica arenaria fosse diventata trasparente, era la bella casa di uno zio del signor di Cambremer, nella quale sapevo che sarebbero stati sempre contenti d'accogliermi se non avessi voluto pranzare alla Raspellière o tornare a Balbec. Così non erano solo i nomi dei luoghi di quel paese ad aver perduto il loro iniziale mistero, ma anche i luoghi medesimi. I nomi, già per metà svuotati, d'un mistero che l'etimologia aveva sostituito col ragionamento, erano scesi ancora d'un grado. Durante i nostri ritorni, nel momento in cui il treno si fermava a Ermenonville, a Saint-Vaast, a Rambouville, scorgevamo delle ombre che sulle prime non riconoscevamo e che Brichot, che non vedeva un accidente, avrebbe potuto scambiare nella notte per i fantasmi di Erimond, di Viscar e di Erimbald. Ma le ombre s'avvicinavano al vagone. Era semplicemente il signor di Cambremer, il quale, completamente in rotta con i Verdurin, veniva a riaccompagnare certi suoi ospiti e a chiedermi, da parte di sua madre e di sua moglie, se non volevo che mi rapisse per tenermi qualche giorno a Féterne, dove si sarebbero succeduti un eccellente musicista che m'avrebbe cantato tutto Gluck e un rinomato giocatore di scacchi con il quale avrei disputato magnifiche partite senza nulla togliere d'altronde alla pesca e allo yachting nella baia e nemmeno ai pranzi Verdurin per i quali il marchese si impegnava sul suo onore a prestarmi, facendomi accompagnare e riprendere per maggiore facilità e anche per maggior sicurezza. Ma non riesco a credere che vi faccia bene andare così in alto. So che mia sorella non potrebbe sopportarlo. Tornerebbe in uno stato tale? Del resto non è molto in forma in questo periodo. Davvero, Avete avuto una crisi tanto forte? Domani non riuscirete a stare in piedi. E si sbellicava, non per cattiveria, ma per la stessa ragione per cui non poteva vedere uno zoppo ruzzolare per la strada né conversare con un sordo senza mettersi a ridere. E prima? Come? Non ne avevate da 15 giorni? È una bellissima cosa, sapete. Dovreste proprio stabilirvi a Féterne. Potreste parlare delle vostre soffocazioni con mia sorella. Ad Ancarville era il marchese di Montpeyroux che, non essendo potuto andare a Féterne perché era stato fuori a caccia, veniva al treno, in stivali e cappello con piuma di fagiano, a stringere la mano ai parenti e nell'occasione anche a me, annunciandomi, per il giorno della settimana in cui non m'avesse dato disturbo, la visita di suo figlio, che mi ringraziava di ricevere e al quale s'augurava che io riuscissi a far leggere qualcosa. O il signor di Crécy, che, venuto, diceva a propiziarsi la digestione fumando la pipa, accettava un sigaro, o anche più di uno, e mi chiedeva: «Ebbene, non mi dite nulla circa il giorno della nostra prossima riunione luculiana? Non abbiamo niente da dirci? Permettetemi di ricordarvi che abbiamo lasciato in sospeso il discorso sulle due famiglie di Montgomery. Bisogna concluderlo, conto su di voi». Altri erano venuti semplicemente a comprare i giornali e si fermavano così a fare una chiacchieratina con noi, molti di cui ho sempre sospettato che fossero lì, sul marciapiede della stazione più vicina al loro castellotto, solo perché non avevano altro da fare che incontrare per un istante qualche viaggiatore conosciuto. Una cornice di vita mondana come un'altra, insomma, le fermate del trenino. Lui stesso, il trenino, sembrava conscio del ruolo affidatogli. Aveva contratto qualche affabilità umana. Paziente, docile di carattere, aspettava i ritardatari per tutto il tempo necessario e addirittura, una volta partito, si fermava a raccogliere quelli che gli facevano segno. Lo rincorrevano ansimando, in questo simile a lui, ma diversi perché loro, per acciuffarlo, andavano di gran carriera, mentre lui non abbandonava mai la sua saggia lentezza. Così Ermenonville, Arambouville, Ancarville, non contente d'essersi interamente spogliate dell'inesplicabile tristezza da cui le avevo viste avvolte, un tempo, nell'umidità della sera, non mi evocavano più nemmeno le feroci grandezze della conquista normanna. E Doncier, anche dopo averla conosciuta ed essermi destato dal mio sogno, quanto e quanto a lungo era rimasto per me in quel nome delle strade piacevolmente gelide, delle vetrine illuminate, della succulenta selvaggina, Doncier. Adesso non era più che la stazione dove saliva Morel. Aigleville, Aquilevilla, quella dove di solito ci aspettava la principessa Sherbatov. Menville, la stazione dove scendeva Albertine nelle sere di bel tempo, quando non era troppo stanca e aveva voglia di trattenersi ancora un momento con me, dovendo fare ben poca strada in più grazie a una ripida scorciatoia che se fosse scesa a Parville, Paterniville. Non solo non provavo più l'ansioso timore di isolamento che m'aveva afferrato la prima sera, ma non dovevo nemmeno temere che si ridestasse, né di sentirmi spaesato a ritrovarmi solo in quella terra feconda non soltanto di castagni e tamerici, ma anche di amicizie che lungo tutto il percorso formavano una lunga catena, interrotta come quella delle colline azzurrognole nascoste a tratti nell'anfrattuosità della roccia o dietro i tigli del viale, ma che incaricava ad ogni tappa un amabile gentiluomo di venire, con una cordiale stretta di mano, a interrompere il mio viaggio, a impedirmi di avvertirne la lunghezza, a propormi, se occorreva, di continuarlo con me. Alla stazione successiva ce ne sarebbe stato un altro, di modo che il fischio del trenino ci faceva lasciare un amico soltanto per consentirci di ritrovarne altri. Fra i castelli meno vicini e la ferrovia che li costeggiava con il passo quasi di una persona che cammina spedita, la distanza era così esigua che quando, sul marciapiede, davanti alla sala d'attesa, i proprietari ci rivolgevano la parola, avremmo quasi potuto credere che lo facessero dalla porta di casa loro, dalla finestra della loro camera, come se la piccola strada ferrata dipartimentale fosse stata una via di provincia. E l'isolata dimora Patrizia è un palazzo cittadino. E persino nelle rare stazioni in cui non sentivo il buonasera di nessuno, il silenzio aveva una sua pienezza nutriente e calmante, perché lo sapevo formato dal sonno di amici andati a letto di buon'ora nel vicino maniero, dove il mio arrivo sarebbe stato salutato con gioia se avessi dovuto svegliarli per chiedere loro qualche favore d'ospitalità. A prescindere dal fatto che l'abitudine riempie a tal punto il nostro tempo che dopo pochi mesi non ci rimane un solo istante libero in una città dove all'arrivo la giornata ci offriva la disponibilità delle sue 12 ore, se anche una di queste per combinazione fosse divenuta vacante, non mi sarebbe più passato per la mente di impiegarla a vedere una delle chiese per le quali un tempo ero venuto a Balbec, e nemmeno a confrontare un luogo dipinto da Elstir con l'abbozzo che ne avevo visto nel suo studio, ma semmai a giocare una partita a scacchi in più, ospite del signor Ferré. Era questo, in effetti, il degradante influsso e il fascino anche, esercitato su di me dal paese di Balbec, da quando era diventato un paese vero di gente conosciuta. Se la sua ripartizione territoriale, il suo disseminarsi estensivo lungo tutta la costa in colture diverse, davano per forza di cose alle visite che facevo ai vari amici la forma del viaggio, essi limitavano altresì il viaggio a niente di più della piacevolezza sociale d'una serie di visite. Persino i nomi di luogo, così sconvolgenti un tempo per me, che il semplice annuario dei castelli, sfogliato al capitolo del Dipartimento della Manica, mi provocava la stessa emozione dell'orario ferroviario, mi erano ormai divenuti non meno familiari di quest'ultimo. Avrei potuto consultarlo alla pagina Balbec Douville via Doncière, con la stessa beata tranquillità con cui si consulta un indirizzario. In quella valle troppo sociale, ai cui fianchi sentivo abbarbicata, visibile o invisibile, una folta compagnia d'amici, il poetico grido della sera non era più quello della civetta o della rana, ma il «Come va?» del signor Criquetou o il «Caire?» di Brichot. La sua atmosfera non destava più angosce e, carica di effluvi puramente umani, era facile da respirare, troppo rilassante persino. Ne traevo almeno il beneficio di non vedere più le cose che da un punto di vista pratico. Il matrimonio con Albertine mi appariva come una follia.